maison. Bon, admettons que bon, je le fiamme. Sono teso, come queste corde qua. Sono agitato, come le onde del mare. Mi sorprendo a cercare leggerezza con questi due accordi qua. Sono malinconico come un vecchio blues. Sono annoiato, sotto il sole di primavera. Sono indeciso, se muovermi o lasciare andare. Mi sorprendo a cantare una canzone estiva. Una canzone estiva, perché c'è bisogno di una canzone estiva, ma perché ho bisogno di una canzone estiva. Guardo certe trasmissioni, sono indignato se leggo i quotidiani. Sono incazzato perché ci stuprano di intelligenza. Mi rendo conto che c'è bisogno di una canzone estiva. Una canzone estiva. Che bello.